Il credo islamico. Dice Allah nel sublime Corano, all'aia 3 della Sura 9, Allah ha comprato da coloro che hanno fede, iman, nella sua unità, unicità e unipersonalità e nella missione apostolico-profetica di Muhammad, le loro esistenze e i loro beni, assicurando ad essi in cambio il paradiso. Vendere la propria esistenza ad Allah, nell'osservanza dei precetti divini, e i propri beni per l'affermazione del primato della parola di Allah è un grandissimo affare per coloro che hanno fede, in quanto il corrispettivo è il paradiso. Chi stipula questo contratto di compravendita è credente, mu'min, mentre chi non lo stipula o viene meno all'adempimento del suo impegno dopo averlo preso è kafir. L'iman, la fede islamica, è il frutto della consapevolezza che la propria completa realizzazione di uomo e di donna può avverarsi solo nel credo islamico e nella pratica di vita coerente a esso. La professione di fede islamica non è solo attestazione verbale dell'unicità di Allah e della missione profetica di Muhammad, ma anche impegno a metterla in pratica vivendo in obbedienza al sublime Corano e ai precetti del profeta Muhammad.